A bordo campo di Dario Ricci. Tanti campioni del pugilato italiano, tanti boxer che ci hanno fatto palpitare, ma ad oggi il pugilato tricolore a livello professionistico conta un unico campione del mondo, categoria mosca nella WBC, e non è stato neanche facile tenerla ben salda legata alla cintura, proprio quella cintura mondiale, vero Simona Galassi? Sanno da sempre, lo sanno comunque per breve. Beh sì, è stato un match duro, però combattuto, e come tutte le cose che vengono, che arrivano con una certa sofferenza, alla fine sono anche, ti danno la sensazione in più del premio, di quello che ti sei conquistato con la fatica, sicuramente ti dà ancora più soddisfazione. Eh sì, perché l'avete riconosciuta dalla voce, il nostro unico campione del mondo di pugilato attualmente in carica è in realtà una campionessa, e che campionessa, Simona Galassi, che a Bertinoro ha recentemente sconfitto la messicana Esmeralda Moreno, mantenendo proprio la cintura mondiale dei Mosca WBC. Simona, ormai è difficile trovare aggettivi per la tua carriera, che ci stupisce match dopo match, no? Ma sicuramente è stata sin da subito una carriera piena di grandi riconoscimenti, perché io ho vinto subito come prima conquista il mondiale da dilettante, poi da lì è seguita una carriera veramente di grandi successi e soprattutto di record, perché quello che io ho vinto nel dilettantismo non l'ha vinto nessuna pugile, diciamo, al mondo, in nessuna categoria, per cui sicuramente sono quei tasselli, no, che lasciano un segno e che quindi ti danno veramente tante soddisfazioni, ti ritorna veramente tantissimo indietro tutto il sacrificio e la passione che poi metti nelle cose che fai, quindi sicuramente tanto. Nel professionismo sicuramente sono sulla buona strada, perché ho conquistato il mondiale, lo sto difendendo già da più di un anno, ma ci sono ancora dei traguardi che voglio comunque, che mi sto prefissando, che spero presto siano un altro importante tassello della mia carriera. Il primo grande traguardo che hai raggiunto salendo sul ring insieme ad alcune altre sparute pioniere è stato quello di sdoganare il pugilato femminile. Quando hai cominciato a combattere tu insieme a Stefania Bianchini e a qualche altra eroica appassionata, eravate ancora viste con scetticismo, e dire scetticismo è poco. Oggi il pugilato femminile ha acquisito una piena dignità anche dal punto di vista tecnico, direi. Ma sì, sicuramente sì, un po' perché ci sono stati alcuni elementi, al di là di me, anche altre ragazze che comunque l'hanno espresso nel modo giusto, perché chiaramente anche tanti detrattori nostri alla fine si sono, come dire, allo stesso tempo si sono ricreduti, perché l'hanno visto e l'hanno visto fare con grande serietà, con grande passione e anche con dei buoni risultati. C'è ancora molto lavoro da fare, perché appunto in Italia si pratica da poco tempo rispetto a tantissimi altri paesi dove sono già tantissimi anni, dove il pugilato femminile ha la sua storia. Qui c'è ancora molto da costruire, però c'è anche un grande vivaio, c'è un grande movimento proprio tra le giovani, quindi sono sicura che piano piano ha il suo futuro. Senti, ma più difficile mettere KO un'avversaria sul ring o i pregiudizi degli uomini a bordo ring? È una gara dura, è una gara dura. Entrare nella testa degli altri è ancora, penso che sia una battaglia ancora più dura. Non mi sono mai posta tanti problemi in questo senso. Ho sempre fatto le cose più che altro per me, più che per gli altri. E se poi arriva qualche critica, pazienza, ma è alla fine l'importante è che ci siano le soddisfazioni mie e dei miei cari, insomma, della mia famiglia, di chi mi vuole bene e niente di più. Tutto il resto è aggiunto, e mi fa piacere che alla fine ci siano anche tanti commenti positivi e tanti fan, tanti amici che mi sostengono, insomma. Le donne lo sanno che cosa ci vuole, le donne che sanno da dove si viene e sanno per qualche motivo che basta vedere. Eh sì, anche perché avendo visto qualche tuo gancio da bordo ring, tenderei a darti sempre in generale ragione. Ultimo che si è aggiunto alla fila dei detrattori è il campione ucraino Vitali Klitschko, che intervistato dal Die Welt tedesco si è detto assolutamente contrario al pugilato femminile. Osservazione che ci permette di introdurre un altro tema. Ma come siete viste dai vostri colleghi uomini? Ma non lo so, in molti campi, cioè in molte situazioni c'è un po' di puzza sotto il naso, comunque c'è anche proprio il fatto di non apprezzare il pugilato femminile. L'ho visto quando ero a stretto contatto anche con la nazionale maschile, c'erano comunque quelli che non erano d'accordo. Poi, come ha detto Klitschko, lo dice quasi con un tono di protezione, no? Che si vuole proteggere la donna, cioè lei non deve farsi male, non è bello vedere che si fa male, eccetera. È quasi, vuole dare quasi un'impronta cavalleresca alla cosa, quando in realtà forse c'è un qualcosa di più. Per quanto riguarda invece le conquiste a bordo ring, direi che quella in assoluto più importante è il fatto che il pugilato femminile è stato ammesso a Londra 2012 nel programma olimpico, e immagino che allora dal tuo punto di vista da atleta professionista, grande soddisfazione ma anche un pizzico di rammarico, perché non potrei esserci. Beh sì, un pizzico di rammarico c'è, semplicemente per il fatto che nella vita credo che per un atleta poter partecipare alle Olimpiadi, cioè essere a contatto con il massimo del massimo di tutti gli sport, per chi ama lo sport così tanto, veramente sia una di quelle cose, quelle sfide che si vorrebbero vivere, quello sicuro. Anche perché quando noi iniziamo, almeno quando io ero ancora dilettante, si parlava già da tempo di Olimpiadi, poi di anni in anno venivano comunque sempre rimandate, quindi per me alla fine questa possibilità mi è stata tolta. Tra l'altro hanno anche messo la mia categoria di peso, per cui sono Beffa e la Beffa, addirittura anche proprio questa possibilità concreta di essere nel mio peso a gareggiare. Beh, insomma, se un azzurro arriverà a medaglia, abbiamo ottime possibilità, ad esempio con Marzia Davide, che è già stata ospite di A Bordo Campo, che ci scappi almeno una dedica per chi questo pugilato in rosa l'ha portato proprio fino alla soglia dei cinque cerchi. Direi che da questo punto di vista credo che la tua storia sia in qualche modo strettamente legata anche a quella di Stefania Bianchini, no? Che è stata tua acerrima rivale sul ring, ma al tempo stesso anche ha condiviso con te questo ruolo di ambasciatrice del pugilato in gonnella in Italia. Sì, assolutamente, perché nel momento in cui io ero l'esponente del pugilato femminile dilettantistico, lei era la campionessa del mondo nel professionismo, quindi c'è stato un momento in cui di pari passo abbiamo portato ognuna nel suo campo avanti l'esperienza del pugilato femminile in Italia, e tant'è che il nostro scontro alla fine è stato anche proprio vissuto dagli italiani, dagli appassionati tantissimo, c'è stato un schieramento o da una parte o dall'altra, cioè si è vissuta questo avvicinarsi, no, delle nostre esperienze con grandissimo partecipazione anche da parte di tutti, e devo dirti che questo nostro scontro, questa nostra rivalità alla fine è stato anche un bel momento della mia carriera. Fuori dal ring veramente eravate così rivali, perché io ricordo le conferenze stampa della vigilia, soprattutto dell'epico match del 24 ottobre del 2008 al Palalido, insomma vi guardavate veramente male. Fuori dal ring invece magari anche qualche telefonata su come vestirsi per una serata di gala o sul trucco più adatto ve lo siete scambiati? Ma no, in realtà no, ti dico la verità, io con tantissime mie avversarie alla fine ho legato tantissimo, tant'è che ci sentiamo ancora con le mie grandissime avversarie russe, cioè ho scritto proprio rapporti anche di amicizia in modo particolare. Con lei in realtà no, nel senso che la rivalità c'era, ma c'era anche proprio così a pelle sul fatto, su quello che ci si giocava, sulla rappresentatività del pugilato italiano, cioè c'era qualcosa veramente di grande, una rivalità molto forte, e quindi sicuramente questo c'è stato, no? E rimane, nel senso che comunque non c'è stata la possibilità di un rapporto di amicizia, però c'è sempre stato un grandissimo rispetto, perché fuori dal ring abbiamo sempre chiacchierato, abbiamo parlato di qualsiasi altra cosa, ci siamo confrontati su tutte le cose. cose possibili. Per quanto riguarda invece l'amore, la vita sentimentale, l'essere una campionessa di box penalizza o avvantaggia? Perché insomma, magari anche qualche potenziale spasimante potrebbe essere un po' intimorito dall'idea di prendersi un gancio da KO, oltre al due di picche magari. Questo non lo credo, cioè se svantaggia semplicemente nel senso che si è completamente assorbiti in quello che si fa, il tempo è assolutamente per una vita di allenamento e con pochissimi svaghi, con pochissima attenzione anche agli altri, per cui questo magari è lo svantaggio, non credo che ci sia lo svantaggio di dire di impaurire o intimorire qualcuno, perché alla fine nella vita sono poi una persona molto diversa da quello che appaio sul ring, quindi vengono fuori le note più femminili che chiaramente non posso esprimere in quel contesto, quindi il sorriso, la dolcezza, queste cose nella vita le sono cose che mi contraddistinguono e quindi non vanno poi a rovinare quello che potrebbe essere un rapporto con un'altra persona, insomma. Parlavamo di futuro, allora cintura mondiale ben salda alla vita, e quali sono i prossimi obiettivi di Simona Galassi? Ma io adesso aspetto le notizie del mio procuratore per una difesa al più presto possibile, quindi nell'arco di pochissimi mesi, e poi chiaramente le grandi ambizioni sono quelle di riunificare le cinture più importanti del pugilato. Io tengo quella della WBC, che è la sigla più importante, ma ce ne sono altre che sono in possesso di una tedesca, e mi piacerebbe arrivare a questa competizione per la riunificazione di tutte le cinture, che è una cosa che pochissimi pugili al mondo insomma riescono ad ottenere. Beh, è quello che ti auguriamo, Simona, e intanto grazie di essere stata nostra ospite a Bordo Campo. No, grazie a voi, è stato un piacere parlare con voi. A Bordo Campo. Una farmacia nel Mantovano, gestita da un certo Guido Nigrelli, 55 anni, personaggio noto, anzi forse famigerato, diciamo meglio, nel mondo del ciclismo, un collegamento con una clinica di Vienna, dove avverrebbero la Human Plasma di Vienna, dove avverrebbero, anzi inchieste hanno già documentato, avvengono processi di arricchimento del sangue. Beh, insomma, lo avete capito, parliamo oggi di doping e purtroppo parliamo ancora una volta di doping collegato al mondo del ciclismo. E parlando di ciclismo, beh, d'obbligo e oltre che estremamente piacevole avere ospite in studio il nostro Dario Ceccarelli. Buongiorno Dario. Buongiorno Dario. Eccolo qua, Dario Ceccarelli, firma di punta di Radio 24 per il ciclismo e non solo, e tra l'altro poi sentite ogni mattina nei nostri notiziari il suo graffio. Beh, di graffio credo che già ce ne sia qualcuno in cantiere su questa vicenda, Dario, di cosa stiamo parlando? Beh sì, stiamo parlando dell'ennesima inchiesta doping che viene da pensare ogni volta che sta per partire il Giro d'Italia, che partirà tra poche settimane, che le farmacie dove si svolge il Giro d'Italia bisogna sempre tenerle sotto controllo, perché qui si è a rischio ogni mattina, e spiace molto, perché è uno sport che gode ancora di moltissima popolarità, solo che non riesce a uscire dal suo antico vizio, che è quello di darsi l'aiutino. Eh sì, l'ultima inchiesta parte proda a Mantova, ma parte dai NAS di Brescia. Si parla di 35 indagati in questa inchiesta, che avrebbe al suo centro proprio questa farmacia, che sarebbe punto di ritrovo e anche di smercio di prodotti dopanti. Nel mirino, Dario, ci sono grandi campioni del ciclismo attuale e anche grandi team, vero? Sì, c'è innanzitutto la Lampre, che è la squadra di Beppe Saronni, e ci sono dei nomi che fanno la storia del ciclismo. C'è Dario Ballan, che è stato campione del mondo, e c'è Damiano Cunego, ci sono altri, Piovani, Bontempi, Gavazzi, Sant'Ambrogio. Il problema è che in realtà l'indagine non si è chiusa, anzi c'è stata una richiesta di proseguimento, perché evidentemente gli elementi non bastano, e non si può neanche dire che sia sotto inchiesta un medico in particolare della Lampre. Diciamo che i medici della Lampre si rifornivano da questo farmacista spesso chiacchierato, però mai condannato. Sì, insomma, chiaramente poi vale la pena sottolinearlo, come già facevi Dario, ci sono indagini in corso e non ancora colpevoli, però è chiaro che il clima e l'aria che si respira nel gruppo ed intorno è pesante come nei peggiori momenti. Parlavamo di Lampre, di questo super team che coinvolge e ha tra le proprie file grandi campioni. Ebbene, tu hai sentito un personaggio chiave del team che è stato anche un grande campione del nostro ciclismo. Sì, ho sentito Giuseppe Saronni, team manager, figura che tutti conosciamo perché ha vinto Giro d'Italia, campione del mondo, campionati del mondo e comunque ha segnato il ciclismo degli anni Ottanta. Saronni l'ho trovato provato da questa vicenda, provato anche umanamente, perché sicuramente trovarsi sempre al centro di chiacchiere su cui puoi dire, puoi non dire, perché non dimentichiamoci che anche un team manager, un grande allenatore, non può giurare su ogni corridore, perché poi ognuno si alla fine fa da solo la propria preparazione, quindi capisco anche l'imbarazzo. Comunque in questa intervista che tra poco sentiremo, Saronni così lancia anche un po' un grido d'allarme anche sulla sua stessa professione, è interessante sentirla. E allora facciamolo subito, Giuseppe Saronni al microfono di Dario Ceccarelli. I tecnici, l'equipe medica e i ragazzi che sono da questo preparatore atletico mi hanno confermato e mi hanno detto che loro hanno sempre svolto le loro attività correttamente. Io l'unica cosa che posso ribadire è questo. Quindi da questo punto di vista ti senti tranquillo, sereno? Io sono tranquillo perché mi fido dei miei collaboratori, delle persone che lavorano con me e poi dei ragazzi che sono dei professionisti e che, attenzione, possono farsi seguire da chi vogliono, cioè sono dei liberi professionisti, però quello che mi dicono io mi fido e in un momento come questo del ciclismo non posso pensare ad altro. Certo, non sono sereno perché non si lavora serenamente, non si lavora con tranquillità, è diventato praticamente impossibile lavorare in questo mondo, colpa anche del mondo del ciclismo certamente, però è impossibile oramai lavorare in questo mondo qua. Quindi è ovvio che anch'io una riflessione la sto facendo, e la sto facendo seriamente, quindi vedremo cosa ne verrà fuori. Cioè tu dici è impossibile lavorare perché dice c'è una tale rete di controlli, di situazioni, di dire che alla fine dice lavorare è diventato un problema. Questo no, che... ma c'è un atteggiamento, come posso dire, una sensazione di essere guardati di pregiudizio, chiamiamolo come vuoi. Quindi periodicamente poi escono alcune cose, alcune situazioni che, per l'amor di Dio, ci sono magari in alcune cose dei fondamenti, in altre no, però sta di fatto che se qualcuno ha sbagliato pagherà, ci mancherebbe altro, non sono io a doverlo dire, ma chi non ha sbagliato ha pagato comunque, questa è la verità, no? In passato purtroppo le cronache alla fine hanno dato più torto a molti anche campioni che alla fine sono stati trovati con le mani nel sacco. Bravo, ma certo, io credo che noi stiamo pagando tutte queste situazioni, la credibilità è quella che è, quindi tutti possono sparare nel mucchio e hanno ragione. Sono amico di Beppe Saronni da 30 anni, così ha detto Guido Nigrelli, il farmacista pseudo preparatore atletico al centro di questa inchiesta. Nel maggio del 2001 finì nel mezzo di un'inchiesta a Brescia per somministrazione di Emagel, un farmaco per diluire il sangue, e il suo nome risaltò poi fuori dopo il blitz di Sanremo al Giro 2001 e poi come testimone nel caso dei sospetti su Emanuele Sella al Giro 2008. Curriculum certo da non invidiare, Dario Ceccarelli. Dicevamo dell'atmosfera intorno al gruppo, e allora c'è un altro interlocutore prezioso per capire questo clima, uno che è sempre stato, diciamo, un fosticatore un po' del gruppo, un catone quasi delle due ruote, vero? Sì, si chiama Ivano Fanini, è il presidente di Amore Vita, una squadra che non ha grandissimi risultati, però perlomeno sappiamo che è pulita. Personaggio un po' discusso, perché a volte le spara un po', nel senso che senza avere pezze giustificative, diciamo così, tende a dare giudizi molto pesanti. È anche vero che alla fine quasi tutti questi giudizi però poi con le cronache giudiziarie hanno avuto dei riscontri, e quindi è vero che parla forse un po' troppo presto, però è anche vero che conosce bene l'argomento di cui parla. Poi solo un riferimento a quando dicevi conosco Saronni dagli amici, mi guardi Dio, nel senso che sì. Dopo quello che così volevo farlo notare. Vedo già che un altro graffio sta prendendo forma. Dicevamo, Dario, appunto di Fanini, insomma, sì, affermazioni roboanti spesso le sue, ma insomma non sempre sono arrivate poi querele per diffamazione in risposta, quindi probabilmente Fanini le spara sapendo dove andare, sì. Poi a colpire, no? Vogliamo sentire un primo passaggio di questa tua ulteriore intervista in cui Ivano Fanini proprio commenta quella che è l'inchiesta in corso. Vengano queste inchieste importanti come questa nuova di Mantova, perché è l'unico modo per fare definitivamente pulizia nel ciclismo, perché purtroppo è che sono i corridori e le squadre, i dirigenti, tutti questi maneggioni che fanno parte del mondo del ciclismo, che non escano e che nessuno fa niente per toglierli di mezzo, e la situazione continua a essere sempre più grave. Questa è una prima affermazione importante di Ivano Fanini, vero Dario, che ci restituisce questa atmosfera, ma lo dicevamo, il personaggio di quelli sanguigni non finisce qua, no, con la, sì, sua lingua. Infatti mentre lo intervistavo sentivo l'eco del figlio che continua a dire: no papà, ma cosa stai dicendo, aspetta a parlare, perché effettivamente lui le parole gli escono un secondo prima del dovuto. Però detto tutto questo, conosce bene il mondo del ciclismo, conosce bene personalmente i corridori, e quindi io comunque un certo peso glielo do. Allora sentiamo quest'altro passaggio della tua intervista e poi proviamo a tirare insieme le somme, Dario. I corridori ormai sono abituati a fare ciclismo in un certo modo, in un certo sistema degli ultimi 10-15 anni, e magari è difficile poterli far smettere, di procedere a un certo sistema di medicine che usandole si va più forte, vanno a 60 all'ora e durano meno fatica. Tutti i corridori degli ultimi 15 anni a portarli in un sistema nuovo è un po' difficile. Vedi Basso, che è il corridore che apprezzo più di tutti in questo sistema degli ultimi anni, che praticamente non lo vediamo quasi più. Lui i risultati che fa le fa con le proprie forze, io perlomeno la penso così ora, e quindi non è uno come Riccò, che è ritornato dopo un anno e mezzo di squalifica con tutto quello che ha avuto e subito va a 60 all'ora e straccia tutti gli avversari. Quindi c'è da pensare che non sia tutto regolare. Poi io di solito sono abituato a vedere i corridori in faccia, e quando li guardo in faccia si vede un po' com'è la situazione. Eh sì, insomma, guardare negli occhi è un po' guardare nell'anima, anche per chi prova a barare sulle due ruote. Dario Ceccarelli, in chiusura, siamo alla vigilia ormai della grande stagione del ciclismo, le classiche del nord le abbiamo viste, stanno per arrivare i grandi giri. Dal punto di vista della lotta al doping, che annata ti aspetti? Ma un'annata come sempre molto confusa, perché il doping, come si sa, corre sempre un po' più veloce dell'antidoping. Interessante esempio la questione di Valverde, non so se vi ricordate, certo. Il campione spagnolo che in Italia non può più correre perché TAS ha dato ragione al CONI, che disse proprio un anno fa che per 2 anni non poteva più correre il discusso corridore spagnolo, eccetera, eccetera. Adesso anche l'UCI, l'Unione Ciclista Mondiale, sta facendo un procedimento perché si è estesa all'intero globo questa squalifica, ma potrà succedere che poi, se viene fatta questa squalifica, arriverà dopo, potrà quindi per un anno correre poi in Italia e non nel resto del mondo. Cioè è tutto molto confuso, non c'è coordinamento tra le varie nazioni e l'Unione Ciclistica Mondiale, per cui si va un po' a naviga a vista, e purtroppo questo lo sport ne risente sempre più, perché la gente si sta disaffezionando, non crede più ai risultati, e questo sport vive per l'amore della sua gente, altrimenti si rischia di arrivare in uno sport di settore imperiale che perderebbe il suo antico fascino. Speriamo di no. Intanto grazie a Dario Ceccarelli per essere stato ospite di A Bordo Campo. Lo aspettiamo a partire già dal Giro d'Italia per raccontarci con la sua voce e con la sua penna le imprese, speriamo pulite, dei grandi campioni della bicicletta. Grazie Dario e grazie agli ascoltatori e a presto. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Fabio Cantadori in regia, vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it e potete scriverci all'indirizzo mail abbordocampo@radio24.it. Ci sentiamo domenica prossima sempre alle 14.30, mentre sabato prossimo alle 13.15 c'è l'appuntamento con A Bordo Campo Sudafrica 2010 nel cuore del mondiale. Un saluto da Dario Ricci.